Lunedì, prima settimana, Vespri. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Inno. O immenso Creatore, che all'impeto dei flutti segnasti il corso e il limite dell'armonia del cosmo, tu, all'aspre solitudini della terra assetata, donasti il refrigerio dei torrenti e dei mari. Irriga, o Padre buono, i deserti dell'anima, coi fiumi d'acqua viva che sgorgano dal Cristo. Ascolta, o Padre Altissimo, tu che regni nei secoli, con il Cristo tuo Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Prima antifona. Giusto è il Signore. Gli uomini retti vedranno il suo volto. Nel Signore mi sono rifugiato. Come potete dirmi, fuggi come un passero verso il monte? Ecco, gli empi tendono l'arco, aggiustano la freccia sulla corda, per colpire nel buio i retti di cuore. Quando sono scosse le fondamenta, il giusto che cosa può fare? Ma il Signore nel Tempio Santo, il Signore ha il trono dei cieli. I suoi occhi sono aperti sul mondo, le sue pupille scrutano ogni uomo. Il Signore scruta giusti ed empi, egli odia chi ama la violenza. Farà piovere sugli empi brace, fuoco e zolfo, vento bruciante toccherà loro in sorte. Giusto è il Signore, ama le cose giuste. Gli uomini retti vedranno il suo volto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. Giusto è il Signore. Gli uomini retti vedranno il suo volto. Seconda antifona. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Signore, chi abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà sul tuo santo monte? Colui che cammina senza colpa, agisce con giustizia e parla lealmente. Chi non dice calunnia con la sua lingua, non fa danno al suo prossimo e non lancia insulto al suo vicino. Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore. Anche se giura a suo danno, non cambia. Se presta denaro, non fa usura. E non accetta doni contro l'innocente. Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Terza antifona. In Cristo il Padre ci ha scelti per essere Suoi figli. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale, nei cieli e in Cristo. In Lui ci ha scelti, prima della creazione del mondo, per trovarci al suo cospetto, santi e immacolati nell'amore. Ci ha predestinati a essere Suoi figli adottivi, per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito del Suo volere, a lode e gloria della Sua grazia, che ci ha dato nel suo Figlio diletto. In Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati, secondo la ricchezza della sua grazia. Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi, con ogni sapienza e intelligenza, poiché Egli ci ha fatto conoscere il mistero del suo volere, il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. Nella sua benevolenza lo aveva in lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. In Cristo il Padre ci ha scelti per essere Suoi figli. Lettura breve. Abbiate una piena conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto,